Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben trovati all'appuntamento del lunedì con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Hashtag Autotrasporti va regolarmente in onda anche ad agosto, non ci fermiamo mai, come d'altronde non si ferma mai il mondo che raccontiamo in questo programma. In apertura, le misure contenute nel decreto agosto, chiaramente ci riferiamo a quelle che riguardano la logistica. A favore dell'autotrasporto ci sono 5 milioni di euro per la deduzione di spese non documentate come misura di riduzione del reddito imponibile, arrivano 200 milioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture. Sul fronte dei porti, in particolare, 50 milioni di euro sono stanziati per la compensazione dei danni subiti dal trasporto marittimo di lungo raggio dovuti alla riduzione dei ricavi tariffari tra febbraio e dicembre 2020. Altri 20 milioni riguardano invece la riduzione dei canoni delle concessioni portuali. Per il mondo dell'autotrasporto restano sul tappeto alcune questioni tecniche, delicate quanto importanti, che condizionano e condizioneranno la regolarità dei servizi e quindi del mercato nei prossimi mesi. Di queste ultime si è parlato nei giorni scorsi in un incontro a Roma al Ministero. Vi ha partecipato Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti. Lomonte è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Lomonte è sul tavolo, ci sono vari dossier, partiamo da quello che riguarda gli accordi post-Brexit tra Gran Bretagna e Unione Europea. Qui chiaramente il discorso riguarda la circolazione delle merci. Lomonte. I dirigenti ministeriali con cui ci siamo confrontati ci hanno un po' illustrato qual è lo stato delle trattative, che appunto non lascia ben sperare, in quanto si rischia ancora un hard Brexit, cioè un'uscita senza regole, senza condizioni, che non consentirebbe di avere anche delle disposizioni per i nostri operatori, che comunque continueranno a doversi spostare, a dover fare dei viaggi nel Regno Unito. Quindi la situazione è ancora assolutamente in alto mare. Noi abbiamo rimarcato la necessità di addivenire al più presto ad un accordo, abbiamo fatto anche dei passi formali attraverso delle lettere inviate ai negoziatori con le nostre organizzazioni di rango comunitario per stimolare, per sollecitare appunto il più presto possibile un accordo che possa in qualche modo creare un quadro comune di regole sia per gli operatori del Regno Unito sia per quelli dell'Unione Europea, affinché appunto si mantengano le ali e le corrette transazioni commerciali appunto nel quadro di un mercato unico che possa favorire tutti gli operatori. Su questo versante siamo stati informati che appunto gli elementi su cui si sta dibattendo maggiormente è appunto la creazione di un level playing field, cioè un quadro appunto comune di regole similari proprio per evitare la concorrenza sleale tra gli operatori, sulla base della quale noi vorremmo siano assolutamente inserite nell'alveo complessivo di un insieme di norme che riguardano tutti i settori, quelle per esempio che sono state contemplate nel pacchetto mobilità, quindi i tempi di guida e di riposo, le regole sociali, il cabotaggio, il tachigrafo, affinché gli operatori del Regno Unito, pur uscendo dall'Unione Europea, rispettino quell'humus comune di regole che è stato creato. E a proposito del pacchetto mobilità, una decina di giorni fa il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ora a livello nazionale occorre mettere in pratica i principi e le regole. Questo è un altro dossier aperto, Lomonte. Sì, anche su questo versante devo dire, per quanto ecco, ci sia la soddisfazione per l'approvazione di un quadro di regole che vanno nella direzione da noi auspicata, quindi per una maggiore serrata diciamo eliminazione di quelli che sono gli ostacoli alla libera concorrenza, alla leale concorrenza tra gli operatori, c'è comunque ancora di fatto una posizione contraria dei paesi, soprattutto dell'est, che stanno in queste fasi successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tentando di minare l'accordo che si è raggiunto. È proprio di ieri la notizia dell'avvio di uno studio, di una survey proprio su un aspetto molto particolare approvato col pacchetto mobilità, che riguarda l'obbligo del rientro del mezzo nel paese di stabilimento del vettore. dopo 8 settimane. Questo era un punto focale proprio per il rispetto delle regole, e invece su questo si avvia già da subito, prima ancora appunto dell'applicazione della nuova norma, uno studio per valutare l'impatto che ne avrà sul mercato unico. Questo è chiaramente un mezzo con cui la Commissione ha voluto in qualche modo accontentare quei paesi dell'est che sono stati sfavoriti dall'approvazione di norme che invece per noi sono fondamentali per continuare a garantire la leale concorrenza, il contrasto all'abusivismo e al dumping sociale che in questi anni hanno di fatto compromesso anche la sopravvivenza dei nostri operatori. Un altro punto riguarda l'intenzione della Svizzera, di fatto, di inasprire la tassazione sul traffico pesante, andando così a penalizzare fortemente le nostre imprese. Su questo fronte cosa è emerso? Il Ministero ci ha rassicurato, insomma, come molti sapranno, soprattutto gli operatori del trasporto, la Svizzera ha un accordo con l'Unione Europea, un accordo bilaterale che regola alcune materie, tra cui quelle inerenti il trasporto stradale, che prevede già un'impostazione, una tassazione basata su delle classi dei veicoli per il trasporto stradale. Su questo la Svizzera unilateralmente sta pensando, anzi lo ha proprio scritto sul sito proprio della istituzionale della Confederazione, di applicare una rimodulazione unilaterale delle tariffe con un aumento anche per i veicoli meno inquinanti, quindi non si giustificherebbe più neanche dal punto di vista ambientale, ma semplicemente per finanziare le proprie infrastrutture ferroviarie. Noi su questo abbiamo chiesto al Ministero di farsi parte attiva nei negoziati in sede comunitaria e già dal 25 di agosto con la riunione che si terrà presso la Commissione Europea, a cui parteciperanno anche i rappresentanti del governo italiano, per far sì che venga ritirata questa proposta, ma non solo, che non venga più riproposta, stante anche lo stato di crisi conseguente all'emergenza dovuta al coronavirus, che ha di fatto azzerato gli scambi commerciali con dei riflessi negativissimi anche sul trasporto, sul traffico, sul trasporto stradale, perché abbiamo assistito proprio anche sul versante dei mezzi pesanti ad un crollo verso le direttrici del centro nord Europa del 30-40%, quindi aumentare le tariffe è del tutto ingiustificato. Sergio Lomonte, segretario nazionale di Confartigianato Trasporti, grazie e buona giornata. Grazie a lei, grazie a tutti, buona giornata. E se la Svizzera dunque ha intenzione di tartassare l'autotrasporto, la Francia è pronta a dimezzare le tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci, con l'obiettivo di incentivare un sistema di trasporti sempre più nel segno dell'intermodalità. In questa direzione va lo sviluppo delle cosiddette autostrade viaggianti. Nei prossimi mesi è previsto il via alle gare per l'assegnazione di 2 collegamenti intermodali a lungo raggio. Voltiamo pagina, il Ministero dei Trasporti e l'INAIL hanno firmato un protocollo d'intesa della durata di 3 anni. L'accordo prevede una serie di iniziative congiunte volte a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi tra gli autotrasportatori, chiaramente un tema molto attuale alla luce dell'emergenza sanitaria. In questo protocollo l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ha un ruolo di indirizzo e di gestione delle varie iniziative. Francesca Aielli è la vicepresidente del Comitato Centrale dell'Albo, in linea con noi. Ben trovata. Salve, buonasera a tutti. Allora, come nasce e perché nasce questo protocollo? Questa è un'iniziativa molto interessante, che è nata da un confronto, una sinergia creata tra il Comitato Nazionale degli Autotrasportatori, quindi il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e anche INAIL, che ha proprio come obiettivo la problematica di dare risposte integrate e di qualità soprattutto ai bisogni appunto di salute e sicurezza sul lavoro rispetto ai principi previsti dal decreto legislativo 81/2008, e quindi si è pensato di fare questo protocollo d'intesa proprio al fine di monitorare e diminuire e rendere più sicuro il lavoro degli autotrasportatori, che è il settore che anche in questo momento particolare che stiamo vivendo tutti è stato il settore che ha garantito l'approvvigionamento di tutti i beni essenziali, e quindi è necessario proteggere la categoria, anche perché sono stati più esposti proprio in questo periodo di rischio epidemiologico. Come si articolerà in concreto questo protocollo? Questo protocollo appunto avrà una campagna di informazione, una campagna nazionale di informazione, proprio per in qualche modo valorizzare questo tipo di lavoro, ma nello stesso tempo ha anche una possibilità di formazione proprio sui rischi connessi all'esercizio della professione. Sarà oggetto soprattutto, diciamo, della formazione, appunto, quello di poter prevedere quali sono le migliori pratiche da attuarsi proprio per la tutela della salute e sicurezza degli operatori e anche, diciamo, per avere una diffusione maggiore della cultura della sicurezza sulle strade, che è un bene che interessa a tutti i cittadini. Francesca Aielli, vicepresidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, grazie e buona giornata. Grazie anche a voi. E ora andiamo, o meglio, torniamo in Liguria. Martedì scorso l'inaugurazione, la sera dopo mercoledì l'apertura al traffico del ponte Genova-San Giorgio, che meno di 2 anni dopo il disastro con 43 vittime del Morandi è tornato ad unire il tratto del Genova a Savona. Parliamo del tratto compreso tra il casello di Genova Ovest e quello di Genova Aeroporto. In Liguria sono stati mesi, giorni, in parte lo sono ancora, difficilissimi per i cantieri, per la messa in sicurezza delle gallerie. Abbiamo raccontato le nostre GR qui in hashtag autotrasporti. Solo per l'autotrasporto si parla di un danno di almeno 300 milioni. Nei giorni scorsi al Ministero è stato aperto un tavolo per avviare le pratiche di risarcimento a favore di tutte le categorie fortemente penalizzate dal caos autostrade. Con Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale, ricostruiamo le conseguenze sui traffici nel porto di Genova in seguito alle varie emergenze che si sono succedute in questi ultimi 2 anni, a partire appunto dal crollo del ponte Morandi, come ricorderete, avvenuto il 14 agosto 2018. Per dare un ordine di grandezza, il Morandi ci aveva portato nel 2019 a un meno 5%. 4 mesi di Covid più emergenza infrastrutturale, meno 20%. Aprile, maggio, giugno, meno 30%. Luglio sta andando leggermente meglio, ma siamo sempre dal 20 al 30%. Quindi noi quest'anno parliamo di qualcosa che vale 5 volte, 6 volte la vicenda del Morandi. Da questo punto di vista questo anno si preannuncia duro, perché verosimilmente non si esaurirà nei prossimi mesi e dovremo sicuramente fare i conti ancora per un bel po' con questa situazione di grande difficoltà. Via libera dalla conferenza unificata al decreto proposto dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che stanzia 906 milioni di euro da destinare a 23 opere proposte dalle autorità di sistema portuale. Lo si legge in una nota del MIT. Una prima tranche di 794 milioni, in particolare, verrà utilizzata per i 20 interventi strutturali ritenuti prioritari e immediatamente cantierabili. La seconda parte, pari a 112 milioni di euro, sarà assegnata a settembre a seguito del riparto del fondo investimenti 2020. Termina qui oggi hashtag autotrasporti. Vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda con Container alle 13.15 per approfondire i temi che trattiamo in questa trasmissione. Io torno in onda stasera alle 18.30 con effetto notte estate per hashtag autotrasporti. Ci risentiamo come sempre lunedì alle 13.45 da Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.